Vi dicevo prima di leggere questo testo che questo brano della Samaritana è un testo bellissimo e ricchissimo. Io lo paragono a una scena in cui ci sono diversi punti focali. Potremmo proiettare il nostro fascio di luce su tanti punti. Gesù, questa donna, la furbizia di questa donna, la sua capacità di convincere i suoi paesani e alla fine bellissimo i paesani che dicono: tu ci hai convinti a venire a conoscere quest'uomo, ma adesso non è più per le tue parole che noi crediamo, perché abbiamo sperimentato noi stessi chi è costui. Eppure, amici, il punto focale per eccellenza è questo tema dell'acqua. Gesù che dice: dammi da bere, e qualche padre della Chiesa acutamente chiosava: Gesù ha sete della fede di questa donna. E ancora quest'acqua viva, che è lo Spirito di Dio, la parola di Dio. E questa donna che fa fatica a capire che cosa vuol dire Gesù. Perché dico che il punto focale è questo dell'acqua viva? Non lo dico io, lo dice chi è studioso, e dice che tutti i quattro Vangeli, dalla seconda alla terza, alla quarta alla quinta di Quaresima, sono Vangeli che alludono al battesimo. E io cercherò una domenica dopo l'altra di evidenziarli. Ma perché il battesimo? Perché nel rito ambrosiano, che è molto più antico del rito romano e che risale a Sant'Ambrogio, non dimentichiamo che Ambrogio è morto più di 1600 anni fa. A quel tempo, nel 300 e rotti, i cristiani erano ancora relativamente pochi. Le persecuzioni romane non erano finite da molti decenni. La gente stava conoscendo il Vangelo e si convertiva lentamente, naturalmente, da adulti, perché era l'adulto che ascoltava la predicazione. E dunque venivano battezzati da adulti. Ai tempi di Ambrogio, solo una volta all'anno, la notte di Pasqua. Io vi invito, se volete, andare a vedere nel Duomo di Milano, a 4,10 metri sotto le sue fondamenta, proprio sotto quei gradoni che vedete sono prospicenti alla facciata del Duomo, durante i lavori di scavo della metropolitana milanese è venuto alla luce un battistero di Ambrogio, in cui Ambrogio ha battezzato Sant'Agostino. E lì battezzava Ambrogio la notte di Pasqua gli adulti. Interessante, andate a vederlo, interessantissimo. Allora, nella Pasqua, nella Quaresima, si faceva il catechismo per questi adulti. E i Vangeli domenicali erano Vangeli battesimali. Vediamo dunque l'accenno al battesimo nel Vangelo di oggi. È chiarissimo, questa acqua. Dammi quest'acqua, dice la donna, che non ha capito che è un'acqua tutta spirituale. E Gesù dice: donna, non hai capito. Se ti do quest'acqua, che è simile a quella del pozzo a cui tu stai attingendo, dovrai ritornare ancora a bere. L'acqua che io voglio darti è un'altra. Tu mi avresti chiesto quest'acqua viva se avessi capito. L'acqua che io gli darò, dice Gesù, diventerà una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna. Ecco cos'è il battesimo. È la vita eterna che ci viene data. È un testo molto chiaro e molto bello. Io però vorrei, come al solito, faccio nella mia predicazione, tentare di attualizzare un po' questo per la nostra vita, perché altrimenti facciamo solo storia, archeologia. Il battesimo oggi. A me sembra che nella vita dei cristiani d'oggi il battesimo non sia percepito con questa forza. Per esempio, non so quanti di noi festeggiano il compleanno, l'anniversario di matrimonio, ma quanti festeggiano l'anniversario del battesimo? Probabilmente parecchi di noi non conoscono nemmeno la data del proprio battesimo. E invece bisognerebbe, se siamo cristiani, come dice Gesù, festeggiarlo più che il compleanno. Il compleanno è un'acqua che ci darà ancora sete, il battesimo che zampilla per l'eternità. Il battesimo, amici, non è appena quello che ci cancella il peccato d'origine. Non è appena quel sacramento che è come il portale d'ingresso nella Chiesa, che ci fa figli della Chiesa, e dietro a quello vengono tutti gli altri sacramenti. Il battesimo è il sacramento che ci salva. È il sacramento che spalanca la porta del cielo. È il sacramento che chiude le porte dell'inferno. È il sacramento della vita eterna. Credo che potrete essere abbastanza d'accordo con me nel dire che non sempre noi lo ricordiamo in questa maniera. Non sempre noi ricordiamo il battesimo. Se poi guardiamo le nuove generazioni, credo che non siamo stati capaci, noi preti e voi adulti, di trasmettere la radice vera del battesimo, tant'è vero che tanti genitori oggi posticipano il battesimo dei loro figli a loro piacere. Non è che hanno una voglia matta di dare il battesimo della vita eterna ai loro figli. No, prima bisogna essere il padrino a una giornata libera per venire al battesimo. Poi bisogna vedere se è libero il ristorante per far la festa. E poi tanti oggi non battezzano più i loro figli. Se vuole ci penserà lui da adulto. E tutto questo dice l'insensibilità a capire che è il sacramento della vita eterna. Per non parlare, qualcuno di voi si stupirà, ma chi vive nelle grandi città lo incontra più volte all'anno, ricevere una lettera raccomandata di qualcuno che dice: poiché io non intendo più far parte della Chiesa Apostolica Romana, chiedo che sia cancellato il mio nome dal registro di battesimo. Naturalmente il sacerdote non lo può fare perché è un atto. Lo oscura. Quindi della gente, guardate che non sono pochi, in curia lo sanno molto bene, coloro che chiedono lo sbattezzo. Concludo, amici, citandovi un fatto che pochissimi conoscono, lo conoscono solo gli esorcisti. Quando incontrano persone realmente possedute dal maligno, che si sentono gridare in faccia dai demoni: è mia quest'anima, non me la toglierai mai. No, dico, non è tua. appartiene a Dio con il battesimo. È mia, mi è stata consacrata. No, prima è stata consacrata col battesimo, ma ti viene uno stringimento di cuore quando dice sì, ma poi arrivo io. Capite, amici? L'anima di un cristiano è candida, è bella, è destinata alla immortalità, ma poi arriva Satana. E io glielo getto in faccia ogni momento, è di Dio col battesimo. Amici, forse è il caso di cominciare a riflettere, e lo faremo in queste quattro domeniche di Quaresima, seriamente, a che cosa vuol dire essere battezzati, cioè avere dentro di noi quest'acqua che zampilla per la vita eterna.